Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata, un'altra settimana anche per Focus Economia. L'augurio è molto facile e anche obiettivamente scontato. Speriamo che sia una settimana almeno migliore di quella scorsa, dove è successo veramente di tutto, non tanto sul fronte economico, ma anche per quello che riguarda la giornata. Partiamo subito dalle borse. Oggi, al di là della borsa di Istanbul, come prevedibile, oggi sotto forte pressione, è arrivata a perdere più del 5%. Sono tranquille le altre borse: più 0,36 Milano, invariata Parigi, più 0,20 Francoforte, più 0,60 Londra, e il Dow Jones guadagna lo 0,20%. L'euro su dollaro a quota 1,10, particolarmente bene Telecom Italia più 3,90, Unipolsai più 2,80, come Azimut il 2,20 lo guadagna ST Microelectronics, ma anche Fiat Chrysler, e poi Unicredit più 1,90 come Saipem e Campari. Il fronte opposto è rappresentato, ma anche qui cali molto contenuti rispetto a quello a cui, ahimè, ci ha abituato il mercato in questi ultimi mesi: Tenaris meno 1,50, Monte dei Paschi meno 1,30, Iux Entraporte meno 1%, CNH Pedro 0,90, Atlantia 0,70 come Luxottica. Tra i migliori e i peggiori segnaliamo primi sui motori da un lato, dall'altro Gala, e anche RCS meno 4,60%. Di Rizzoli, Corriere della Sera parleremo dopo, che non so se a sorpresa, sicuramente l'esito era tutt'altro che scontato nella corsa a due tra, da un lato, il finanziere Bonomi e dall'altro, che aveva dietro la Mediobanca, e dall'altro invece il proprietario del gruppo La Sette, oltre che la Cairo Editore, quindi Umberto Cairo, che aveva dietro anche l'appoggio di Intesa San Paolo. Dicevo, una gara 2 sembrava, secondo alcuni, più scontata la vittoria stante alle azioni raccolte inizialmente di Bonomi. Invece, in questo senso, in maniera non scontata, in questo senso dico a sorpresa, è arrivato il sorpasso proprio nel finale, nell'ultimo giorno possibile, da parte delle azioni raccolte dal gruppo Cairo. Quindi il gruppo Rizzoli Corriere della Sera va al gruppo Cairo. Parleremo del fronte economico-industriale, perché è un periodo, come sappiamo anche noi, non facile per tutti, tutto il mondo dell'editoria. C'è un sorpasso che è avvenuto con web, c'è la ridefinizione anche di strutture, di come arrivare a margine, per non dire a profitto. Però qui c'è anche un'operazione che, al di là dell'oggetto in sé, il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, non sfugge a nessuno che sia un'operazione anche in cui si vanno un po' a ridisegnare gli equilibri, perché da sempre, diciamo, il pacchetto, il nocciolo di azioni in mano a chi si rifaceva a Mediobanca, da questo punto di vista è saldato. Urbano Cairo ha obiettivamente scompaginato quelle che erano le previsioni precedenti. E anche di questo parleremo, perché l'avevo promesso dei dati, purtroppo, ahimè, sia la vicenda di Nizza che quanto accaduto poi a Istanbul hanno fatto cambiare in Turchia la scaletta del programma. Avevo promesso un approfondimento, lo faremo con l'ex ministro Giovannini, sui dati e la povertà. Cioè, andiamo a riprendere un po' i temi che sono saltati la settimana scorsa, perché abbiamo fatto dirette speciali anche in questo programma. Dicevo, il dato sulla povertà, così come riprenderemo anche il viaggio che il Sole 24 Ore sta compiendo in alcune aree del paese. È un viaggio iniziato in Campania, poi è proseguito in Puglia e adesso nel nord-est, per la digitalizzazione delle imprese. Ne parleremo più avanti, ma continuano, non dimentichiamo le cose. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le notizie in breve. Allora, dicevamo di Istanbul, è arrivata a perdere più del 5, poi ha chiuso malissimo, adesso c'è l'ultimo dato, meno 7%, è risalita anche paradossalmente perché dopo un'apertura in calo del 5% è arrivata a perdere il 7, l'8, il 9 e poi ha recuperato qualcosa, meno 7,1%. Dicevamo però che sulle altre borse i contraccolpi non si sono sentiti, e se vogliamo anche questa può essere una notizia, perché un conto sono le elezioni politiche o altri elementi, ma insomma i tentativi di colpi di Stato che lasciano comunque una situazione estremamente incerta in Turchia. Non devo stare qua a spiegare perché la Turchia da un punto di vista geopolitico e geoeconomico e quindi strategico è un paese fondamentale nella cerniera Europa-Asia, però insomma in altri casi avremmo visto prevalere le speculazioni. Così non è avvenuto. Sentiamo su questo all'interno dei 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Dicevo, sentiamo l'analisi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. In un mercato che si è ormai abituato a fronteggiare di tutto, anche il fallito golpe in Turchia non sembra aver lasciato ferite particolari né sulle azioni né sulle obbligazioni e tantomeno sulla lira turca, che dopo un tonfo iniziale legato all'ansia, soprattutto del dopo tentativo di golpe, ha addirittura recuperato l'1,7%. Ma che cosa sta succedendo? Il mercato più che altro ormai sta guardando con grande attenzione le mosse delle banche centrali e soprattutto il flusso dei profitti aziendali che arrivano in questo momento. Brexit non sembra più un problema, visto che tutti gli indici principali hanno recuperato le perdite che avevano accumulato dal giorno del referendum. Finché c'è guerra c'è speranza, ma è proprio presto per dirlo, ma sicuramente per il mercato oggi queste tensioni geopolitiche rappresentano il male minore. Il momento in cui la volatilità dei titoli e soprattutto le incognite legate al progresso del quantitative easing in Europa lasciano aperti interrogativi su quali saranno le ripercussioni nel momento stesso in cui, passate le tensioni, si tornerà alla normalità. La prudenza comunque resta d'obbligo tra gli investitori, tant'è vero che l'oro ha perso appena lo 0,7%, tagliando di poco un progresso di oltre il 25% accumulato dall'inizio dell'anno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo avanti con altre notizie per quello che riguarda i dati societari. La Bank of America oggi ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in calo a 4 miliardi 230 milioni di dollari, migliore delle attese degli analisti. Però sulla Turchia, visto che siamo in ambito di notizie internazionali, faccio notare che ovviamente un conto è la reazione di borsa, altra cosa è l'analisi più nel medio termine. Standard & Poor's, agenzia di rating che dà i voti anche agli stati, dice che insomma la situazione geopolitica anche alla luce del fallito golpe in Turchia è sotto analisi e sta valutando implicazioni, così come dice Fitch, altra agenzia di rating. I rischi politici sono alti, ci atteniamo una risposta delle autorità turche, e Euromonitor registra un crollo, come era immaginabile, delle prenotazioni turistiche sulla Turchia, meno 35%. Nel 2015 il paese aveva registrato 35 milioni di arrivi internazionali e ci si attende quest'anno, già nei primi tre mesi erano diminuiti del 20% per via del rischio attentati e degli attentati, ahimè, che siano realizzati. E gli operatori si attendono, lo dà come dato Euromonitor, un calo complessivo del 35%. Veniamo all'Europa. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, è per un rafforzamento del ruolo del fondo salva stati ISM, che potrebbe essere il coordinatore della ristrutturazione nel caso in cui un paese avesse bisogno di rinegoziare il proprio debito. Invece dall'Unione Europea arriva una buona notizia per gli allevatori europei, gli agricoltori in generale, ma soprattutto gli allevatori del settore latte. e praticamente arriveranno 500 milioni complessivi, di cui 150 milioni di euro solo di fondo per incentivare da un lato la riduzione complessiva della produzione di latte non in italiano, a livello europeo 1.400.000 tonnellate in meno, e invece gli altri 350 milioni saranno distribuiti fra gli stati membri, che potranno anche decidere a quali settori destinarli. Il pacchetto va, ha detto il ministro Martina, nella direzione che abbiamo chiesto, che ha chiesto l'Italia, per dare risposte concrete agli allevatori e agli agricoltori. Ancora due notizie, vedo messaggi su un po' di pazienza per quello che riguarda Cairo, ci mancherebbe. Ne parleremo, l'operazione di mercato, anche se non sfugge a nessuno che quando si parla del Corriere della Sera non si può parlare solo di mercato, come possiamo parlare di uno yogurt, con massimo rispetto per lo yogurt, o di una bottiglia, si parla anche, diciamo, di equilibri. Il titolo l'hanno fatto tutti, non lo dico chi sta scrivendo, è chiaro, sconfitta di Mediobanca, vittoria dell'asse Cairo Intesa, è il titolo che hanno fatto tutti, perché, insomma, non stiamo dicendo nulla di particolarmente nuovo. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Visto che oggi è tornato a parlare anche il presidente dell'INPS Boeri, che ha detto spero che sulle pensioni si faccia qualcosa di serio, troppe volte si è tenuto in modo estemporaneo, e poi serve integrazione con gli immigrati anche tramite contributi. Io vorrei tornare sul dato, ahimè, diffuso la settimana scorsa, e quindi il dato che riguarda la povertà degli italiani e i livelli raggiunti nel 2015. Allora, dicevamo, volevamo parlarne, ma poi c'è stata la tragedia di Nizza e non solo. Comunque, nel 2015 lì è stato stimato che le famiglie in condizioni di povertà assoluta sono state pari a 1.582.000, di cui 4.600.000 le persone, le famiglie chiaramente più o meno si moltiplica per 3. È il numero più alto dal 2005. Per povertà assoluta, visto che ci avete chiesto, si intende la disponibilità economica che non raggiunge una certa soglia di reddito calcolata in base a diversi parametri, compreso il luogo di residenza, per cui in generale una famiglia di due persone viene considerata in povertà assoluta se guadagna meno di 1000 euro al mese tutti e due. Ma a Milano, l'abbiamo già fatto come esempio, se sono due coniugi con due figli a carico, sei in povertà assoluta dopo se hai meno di 1.677 euro di guadagno al mese. Allora, il numero di famiglie si mantiene stabile, mentre aumenta il numero di persone, questo abbiamo già spiegato, aumenta soprattutto nella famiglia con quattro componenti, quindi con due figli a carico, dal 6,7% nel 2014 al 9,5%, e tra le famiglie di soli stranieri, che in media sono più numerose come famiglie, vanno quelli in soglia di povertà dal 23% al 28%. E dai dati si evince anche, che è una cifra enorme, che un minore su 10 vivrebbe in condizioni di povertà. Siamo di nuovo in collegamento con il professor Enrico Giovannini, che appunto insegna statistica economica all'Università di Tor Vergata, ex presidente dell'Istat ed ex ministro del lavoro con il governo Letta. Buonasera. Buonasera. Ci aveva spiegato come mai aumentano, diciamo, le persone ma non le famiglie, perché molti sono rientrati nella famiglia d'origine, dai genitori, quando perdono un lavoro o quant'altro. Però la Camera ha approvato il reddito di inclusione. Boeri è molto critico su questo, dice le misure sono ancora limitate. Il presidente dell'INPS nel passaggio parlamentare, il DDL povertà ha perso incisività. Ascoltiamo sia Boeri che la Camusso su questo, poi le faccio la domanda. I dati dell'Istat sono dei dati preoccupanti, soprattutto perché mettono in luce questo aumento del numero di individui più che di famiglie che sono in condizioni di povertà. Credo che certamente sono dati che si basano su indagini sui consumi principalmente, non sui redditi, che forse è il modo migliore di misurare la povertà in Italia. Credo che sia davvero importante, alla luce delle esperienze che ne abbiamo avuto durante questa crisi così lunga, l'Italia si doti degli strumenti di contrasto alla povertà che esistono in altri paesi europei. C'è un disegno di legge delega sulla povertà che però nel suo passaggio parlamentare ha visto progressivamente pezzi importanti che si sono persi. Quel disegno di legge delega dava gli strumenti al governo per razionalizzare. Purtroppo le cose fatte in Parlamento ne hanno ridotto di molto l'incisività. In tante occasioni abbiamo già verificato e determinato che la povertà è una trappola che non risolvi esclusivamente con le misure monetarie, ma le risolvi con l'inclusione, che hanno due punti di riferimento fondamentali: uno è l'accesso all'istruzione e il mantenimento dell'istruzione, l'altro è l'accesso al lavoro. E quindi torniamo al punto, un'idea generale che è quella che caratterizza i provvedimenti di questo governo, che la delega alle imprese a risolvere i problemi dell'occupazione non permetterà mai di ridurre queste diseguaglianze, e l'idea che tu lo sostituisci solo con politiche monetarie dimostra che poi non esce dalla trappola della povertà. Allora, professor Giovannini, ma perché si sono persi 3 anni di politiche contro la povertà? Perché già a metà del 2013 avevamo destinato circa 170 milioni di euro per estendere a tutto il Mezzogiorno la sperimentazione che il governo Monti aveva avviato, ma in realtà poi l'abbiamo realizzata come governo Letta, nelle grandi città, del sostegno per l'inclusione attiva. E poi, che cos'è il sostegno per l'inclusione attiva? Esattamente, è un insieme di misure a cui il governo anche attuale si sta ispirando. C'è un trasferimento monetario, soprattutto c'è un accompagnamento al lavoro, un obbligo di mandare figli a scuola, un obbligo di mandarli alle visite mediche, cioè c'è una presa in carico della famiglia a tutto campo in maniera tale da farli uscire insieme dalla trappola della povertà e non semplicemente elargire, diciamo, un obolo monetario. Cosa vuol dire questo? Cioè, per esempio, in alcuni paesi esiste un sussidio che va via via a diminuire più tu ritardi l'ingresso al mondo del lavoro e poi addirittura lo perdi se rifiuti il lavoro, prego. Esattamente, ci sono dei controlli molto stretti naturalmente, e noi avendo riformato l'ISEE... Ma nei paesi con i più grandi invalidi civili falsi d'Europa lei non teme che poi, visto che parliamo di sud, è inutile girarci attorno, i furbi possono usare questo, cioè che salti il meccanismo? Certamente c'è questo rischio, ed è per questo che erano stati previsti tutta una serie di interventi anche di controllo continuo, perché il rischio esiste. E che cosa però bisogna fare? Bisogna realizzare ad esempio il casellario unico dell'assistenza che avevamo varato e che l'INPS deve finalizzare, in cui per ogni individuo si va a vedere quanto riceve dal comune, quanto dalla regione, quanto dallo Stato, in modo da evitare che magari elemosinando a destra e a sinistra le persone riescano, diciamo, a duplicare questo tipo di interventi. Come vede, quindi il sistema è molto più complesso, e questo spiega perché si è preferito invece fare degli interventi magari più semplici, ma questo non risolve la povertà, ed è per questo che il disegno di legge delega va benissimo da un certo punto di vista, è molto ampio, ma ora va realizzato in tempi molto rapidi, perché appunto i poveri stanno crescendo, in questo senso si sono persi 3 anni. Io spero che l'emergenza spinga il governo anche ad aumentare le risorse da mettere su questo strumento. 600 milioni quest'anno e 1 miliardo l'anno prossimo non sono comunque sufficienti. Ma distinguendo tra chi e chi, mi scusi Giovannini? Tra chi è sotto la soglia di povertà, e lo deve dimostrare con molta accuratezza, e riuscendo in particolare a intervenire laddove ci sono figli minori. Però mi scusi, lei che è anche un economista, voglio dire, di questo io vorrei chiudere su una cosa. Va bene, il reddito di inclusione, c'è un grosso tema sullo sfondo che è il reddito di cittadinanza. Ora, al di là del costo economico, noi lo affrontiamo sempre sul fronte del costo economico, perché ovviamente con i conti che abbiamo diventa impraticabile, ma anche ammesso che uno dicesse sforo il deficit, mi becco tutte le sanzioni europee, vabbè. C'è un altro tema su questo. Nei paesi anglosassoni che hanno sperimentato per decenni i sussidi importanti di disoccupazione, penso all'Australia, al Canada e altri paesi, si sono accorti poi che c'era un effetto distorsivo, ossia se tu devi dare il sussidio per il periodo che serve al disoccupato a ricercarsi un lavoro, ok, ma avevano intere generazioni e fasce di popolazione che vivevano grazie al sussidio, che era abbastanza cospicuo, vivevano non bene ma ci stavano dentro, come si può dire con un linguaggio giovanile, e quindi in realtà posticipavano l'ingresso al mercato del lavoro. E noi sappiamo che in alcune realtà del paese, anche qui, non solo il sud, ma anche il lavoro nero non viene mai contabilizzato. Allora, se io dovessi sommare un po' di lavoro nero a un sussidio di disoccupazione, reddito di cittadinanza consistente, quasi quasi, non dico che non mi convenga lavorare, ma posso ritardare l'ingresso nel mercato del lavoro. Questa è l'obiezione classica ed è basata su una serie di evidenze, ma non dobbiamo dimenticare anche l'evidenza tedesca, dove il sommerso esiste tra l'altro, per cui le riforme Hartz famose hanno cominciato a produrre una riduzione della disoccupazione reale solo quando è stato inserito il reddito di, appunto, inclusione sociale o comunque di sostegno collegato agli altri ammortizzatori sociali. Se lei sta per perdere il lavoro in Germania, l'agenzia federale le dice: è inutile che tu cerchi di stare abbarbicato a questo posto che sta per sparire, tu lasciati andare su una rete di 90.000 persone che cercano il lavoro a chi lo ha perso, un database integrato con quelli delle imprese, un obbligo di formazione senza il quale il sussidio si perde e così via. Cioè una serie di strutture che hanno consentito di non solo ridurre drasticamente gli altri ammortizzatori sociali, ma di far ripartire le persone invece di lasciarle nella trappola dell'esclusione. Non dimentichiamo che in Italia noi abbiamo un elevatissimo tasso di disoccupazione cosiddetto strutturale, cioè di persone che restano disoccupate per ben più di un anno. Queste persone cadono nella trappola della povertà, le famiglie, i figli in particolare, saranno molto probabilmente poveri anche quando saranno adulti, questo l'OCSE lo ha dimostrato ampiamente, e questo genera insicurezza e, come abbiamo sentito anche recentemente su alcuni casi, chi ha paura di cadere nella trappola della povertà tende a risparmiare se può, e questo frena la crescita economica. I consumi. Grazie Enrico Giovannini, appunto, che insegna statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, ex presidente Istat, ex ministro del lavoro, governo Letta. Grazie. Grazie a lei. Allora, adesso andiamo sul meteo e la pubblicità, poi la borsa, ripeto, la chiusura, a chi continua a chiedere, Istanbul ha chiuso con un calo del 7%. Però era andata anche peggio, ma non vi sono stati impatti sulle altre borse. Ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. Allora, 17:36 minuti, andiamo sulla borsa. Dicevo, nessuna reazione, abbiamo avuto anche 100 secondi su questo, sui mercati, a quanto avvenuto in Turchia. Milano chiude invariata, 0,08% di rialzo, così come leggermente negativa chiude Parigi, meno 0,3, invariata chiude Francoforte e Londra guadagna lo 0,60, il Dow Jones più 0,10%. Tra i titoli, Monte dei Paschi meno 1,80, Tenaris meno 1,60, Luxottica meno 1,40, e invece Telecom più 3,20%, Azimut più 2,90 e Steam Microelectronics più 2%, come Fiat Chrysler. Ancora Unipol 6 più 1,80, come Saipem e Unicredit. Paolo Paronetto, al di là poi della vicenda RCS, perché Cairo Communication ha perso il 6% oggi in borsa, e ne parleremo, abbiamo un approfondimento apposito più avanti. Dicevo, buonasera innanzitutto a Radio Cori sulle 24 ore, Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Telecom da un lato e Monte dei Paschi dall'altro. Sì, inizierei con il Monte dei Paschi di Siena, che è stato tra i titoli peggiori, se non il peggiore per gran parte della seduta. Qui il titolo ha risentito dell'allarme lanciato venerdì dall'agenzia di valutazione Moody's, che ha messo sotto osservazione il rating per un possibile taglio. Non naturalmente la decisione è dovuta all'ipotesi che l'istituto debba lanciare un aumento di capitale per assorbire il peso e dei crediti deteriorati, della possibile vendita dei crediti deteriorati per rispondere alle richieste della BCE a un prezzo che comporterà un significativo impatto a bilancio, e dell'ipotesi anche che in questo aumento ci debba essere l'intervento dello Stato per mettere in sicurezza l'istituto. Il titolo quindi ha chiuso in calo dell'1,82%. Per quanto riguarda invece Telecom Italia, si avvicina l'appuntamento con la pubblicazione dei conti semestrali, che ci sarà il prossimo 26 luglio, e gli analisti diciamo che aspettano conti positivi dopo che il presidente Giuseppe Recchi nei giorni scorsi ha annunciato che i numeri parleranno da soli. Gli analisti iniziano a fare i conti e quindi prevedono che nella semestrale si inizi a vedere un po' di effetti della cura messa in atto dal nuovo amministratore delegato Flavio Cattaneo. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, oltre appunto a Telecom e Monte dei Paschi, abbiamo visto Tenaris un po' debole, per quello che riguarda il lusso, abbiamo visto, c'era oggi tutto il giorno che si muove un po' incerto. Moncler alla fine è chiuso in parità, ma Luxottica -1,40, Yux -0,80. Paolo? Sì, beh, diciamo che il clima generale di tensione, di incertezza, c'è chi inizia a fare i conti e prevede magari che ci possano essere impatti negativi sul fronte del turismo e della fiducia dei consumatori, che è naturalmente il primo motore poi delle spese dei consumatori, quindi i titoli del lusso che sono spesso i primi a subire l'impatto soprattutto magari del turismo dall'estremo oriente, oggi sono stati venduti da gran parte degli investitori. Allora, andiamo sui migliori e peggiori: Gala più 14, Industria e Innovazione più 12, Ceramica e Richetti più 11,20, EMS più 9,70, fronte opposto, primi sui motori -12%, il Venture Group -9, Ambra Mobiliare -8,40 e appunto Cairo Communication -6%, Cairo Communication che oggi ha approvato l'assemblea degli azionisti la proposta di aumento di capitale per l'operazione del Rizzoli Corriere della Sera. Ha attribuito al Consiglio di Amministrazione una delega per aumentare il capitale con un aumento riservato fino a 70 milioni di euro. E allora parliamo di questa operazione che, lo dico a sorpresa secondo alcuni, sicuramente l'esito era incerto, ha visto superare con un rush, perlomeno come notizie ufficiali, nel finale il numero di azioni raccolte dall'OPS, dall'offerta pubblica di scambio di Urbano Cairo, rispetto all'OPA, l'offerta pubblica di acquisto di Andrea Bonomi. Il risultato è stato 48,8% del capitale consegnato all'offerta pubblica di scambio di Urbano Cairo contro il 37,7% consegnato all'offerta pubblica di acquisto di Andrea Bonomi, che pure partiva in vantaggio avendo già di suo il 22,6% del capitale. Allora, notizie di oggi intanto su questa operazione: l'antitrust ha detto che non c'è il rischio di una posizione dominante, ossia il fatto che la Cairo Communication acquisti il controllo della Rizzoli Corriere della Sera, perché già il gruppo Espresso e il gruppo Sole 24 Ore sono efficaci concorrenti, quindi già presentano analoghe caratteristiche in termini di varietà dell'offerta multimediale e rappresentano un efficace vincolo concorrenziale alla nuova realtà che si verrà a creare. Cairo Communication ha dichiarato pienamente efficace l'offerta su Rizzoli Corriere della Sera. Il gruppo Intesa San Paolo, che è uno dei principali creditori, è il primo creditore di Rizzoli Corriere della Sera ed era e appoggiava Cairo, Intesa San Paolo aveva il 4,2% delle azioni. Dicevo, Intesa San Paolo si è impegnata a rifinanziare la quota parte del debito RCS. E per quello che riguarda la quota dell'editore, nel caso in cui tutti gli azionisti di Rizzoli Corriere della Sera che hanno consegnato le azioni all'OPA, quindi a quella di Bonomi, dovessero migrare sull'offerta pubblica di scambio di Cairo, il pacchetto in mano a Cairo scenderebbe al 47,9%, ma lo stesso Cairo ha ribadito di essere a quel punto disponibile a riacquistare in modo da avere il 50% per ripristinare la soglia del 50% in suo possesso. Ancora nessun ragionamento sul nuovo consiglio di amministrazione, sul presidente, ma il direttore è un bravo, Luciano Fontana è un bravo direttore che conosce molto bene il Corriere. E ascoltiamo Cairo sull'operazione andata in porto di oggi, a margine dell'assemblea di oggi. Vedevo che c'era una, da parte dei fondi in particolare, speravo anche del pubblico, dei risparmiatori, c'era una buonissima predisposizione, per cui da questo punto di vista ero abbastanza fiducioso. Quello che voglio fare è avere tutte le deleghe, perché è molto importante in questo momento capire bene, e ogni volta che esce un euro dall'azienda capire perché esce e se esce nel modo giusto o potrebbe essere fatto un investimento diverso o un costo diverso. Cominciamo prima di entrare, vederla, intervenire per bene, per quello che va fatto, poi col tempo di... Bonomi non l'ho sentito direttamente, ho parlato con altri della cordata, a parte chi non importa, che mi hanno chiamato e erano molto, comunque molto positivi, diciamo, sembravano quasi i miei compagni di viaggio. Allora, Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ciao. Che hai seguito tutta la vicenda fin dall'inizio. Beh, sei d'accordo sulla sorpresa nel finale, anche se i ben informati dicevano no, guarda, però insomma, ai nastri di partenza, come si dice in gergo, era avvantaggiato Bonomi, avendo già un pacchetto del 22%. Certamente, diciamo che va riconosciuto, sono stati molto bravi perché sono riusciti a cogliere diciamo anche le esigenze di quelli che non avrebbero dato le azioni a loro perché proponevano uno scambio, sono riusciti a prendere persino le azioni degli arbitraggisti, quindi E con una campagna anche di stampa, devo dire a mio avviso particolarmente efficace, anche la campagna di comunicazione fatta da Cairo. Di pubblicità vuol dire? Di pubblicità, sì, sì, certo. Da questo punto di vista però, a questo punto l'antitrust ha chiarito che non c'è nessun rischio di posizione dominante, ma che cosa vuol dire dal punto di vista del riassetto finanziario? Perché poi la gente interessa sì capire chi controlla il Corriere, ma anche... diciamola tutta, in quelli che venivano chiamati i salotti buoni della finanza, questa è una sconfitta per Mediobanca, una vittoria per Intesa. Diciamo che Intesa era già diciamo lo stakeholder più esposto, perché oltre ad essere azionista aveva anche la massima esposizione in termini di debito, ha scelto una soluzione, ha sostenuto una soluzione industriale di dare un editore al Corriere che è anni che non ha un editore puro. Cioè che ha una compagine di azionisti. Prima della vittoria di Cairo c'erano la Giovanni Agnelli e C, la Comandia Operazioni che aveva il 16%, Mediobanca aveva il 9%, della Valle il 7,3%, Schroeder il 5%, Cairo appunto aveva il 4,60%. Aveva degli azionisti, anche dei begli azionisti, però diciamo non aveva qualcuno che di mestiere, certo, faceva l'editore, e questo è quello che cambia soprattutto per quanto riguarda il Corriere e anche tutte le altre testate e la Gazzetta, del gruppo, certo. Ecco, vorrei capire che cosa potrebbe cambiare in ottica di sinergie, anche perché poi ne parliamo con il professor Gambro dal punto di vista del mondo dei media, perché parliamo di noi ogni tanto, che è un mondo che attraversa una grossa rivoluzione, una grossa trasformazione, i quotidiani in primo luogo, c'è la concorrenza, lo sappiamo, di tutto il web. Ci sono i margini, c'è la concorrenza sia come lettori che anche come investimenti pubblicitari. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Eleonora Micheli, buonanotte, Antonello Olivieri, stavo ancora pensando alla borsa. Antonello Olivieri, è chiaro che mentre noi abbiamo molto parlato in queste settimane e mesi delle operazioni sul fronte televisivo, penso solo all'intera operazione Mediaset premium con Vivendi e anche l'interesse dei francesi per Telecom, cioè le sinergie sul fronte televisivo, multimediale. Questa operazione ci riporta al settore più classico del mondo dei media. Che cosa potrebbe cambiare e quali sono già le indicazioni che ha dato Cairo sulle possibili sinergie? Ma Cairo ha dato degli obiettivi di piano, per esempio, che prevedono di arrivare a un EBITDA di gruppo, anche se non ci dovesse essere la fusione, per il 2018 di oltre 200 milioni. Dopodiché non ci sono i dettagli specifici, lui ha un po' detto quali sono le sue idee, lui conta molto sulle possibili sinergie tra la Sette e il Corriere, per esempio, però più che quantitative direi che sono un po' più iniziative di tipo editoriale. Ci sono delle divergenze, la parte della cordata Bonomi, ma recentemente nei giorni della contesa ha detto ma noi le sinergie tra un quotidiano e la TV non le vediamo, e invece lui ritiene che ci possono essere. Io penso più sui contenuti che su altro, ma potrebbe anche essere sulla pubblicità, ecco. Beh, le sinergie si fanno o sui contenuti o, se vai oltre, anche sulla parte di raccolta pubblicitaria, ecco perché Antonello Olivieri si riferiva alla parte pubblicitaria. Questa era una delle parti più attese. L'altra, però, visto che la evocavo, riguarda il fronte Mediaset Vivendi, cioè i francesi sembrano aver mollato in questo momento il colpo sull'ipotesi di penetrazione forte in Italia, ma siamo sicuri che sia proprio così? Vivendi? Ma insomma, Mediaset Premium mi sembra che l'operazione è in piedi. Adesso che cosa ne esca fuori è un po' difficile da dire, perché anche Canal Plus in Francia non sta andando benissimo. Non si è ancora capito bene, diciamola così, e non si è capito ancora bene che ruolo possa avere Telecom in questa vicenda. Teoricamente niente, però il padrone è lo stesso, in qualche modo. Il padrone ti riferisci appunto a Bolloré, chiaramente, e al gruppo Vivendi. Una seconda dopo parleremo della parte anche di innovazione digitale. Sappiamo che su questo da anni che parliamo di una convergenza tra l'operatore che ha la rete, la banda e chi fornisce contenuti, però Antonella converrai con me che ne parliamo da anni ma si è visto poco ancora, certo, no? Certo, sì, c'è anche chi dice che per passare il treno non è che bisogna avere la proprietà dei binari, effettivamente è anche un altro tipo di filosofia. Il progetto cui crede Bolloré, per esempio, è quello di fare le miniserie ma da diffondere in tutto il mondo, è un progetto faraonico da Sud America fino alla Russia, miniserie video da veicolare sui telefonini, però anche questo sì. Diceva c'è bisogno di avere la proprietà dei telefonini, forse no, però sì, questo è il punto. E poi io personalmente, ma questo è un mio giudizio molto personale, sono dell'idea che bisogna stare molto attenti a immaginare miniserie globali. Alcune cose sono globali e globalizzabili, altre molto meno. Comunque ringrazio per averci aggiunto in collegamento anche chi ha scritto recentemente anche della vicenda. Mi riferisco a Marco Gambaro, che è professore a scienze economiche e aziendali alla Statale di Milano, dove insegna economia della comunicazione. Buonasera, professor Gambaro. Buonasera a tutti. E poi con lei continueremo anche dopo il GR24. Siccome lei scrisse su Tempo, insomma, qui la partita si sposta più che sul controllo, che sempre è stata un po' l'ossessione dentro il gruppo Rizzoli quella della sera, avendo tanti azionisti. In questi anni ne abbiamo sempre parlato per i tentativi di arrivare a un controllo maggiore da parte di un azionista piuttosto che di un altro. Lei ha detto dalla partita per il controllo si passa alla partita per il mercato. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che la situazione dei giornali è un po' cambiata ed è naturalmente peggiorata, è un settore che si sta concentrando un po' in tutti i paesi e quindi la cosa difficile che avrà di fronte Cairo in questo momento sarà quella di riuscire a far funzionare RCS, riuscire a far funzionare il Corriere, la Gazzetta dello Sport e le altre cose che ci sono attorno. Perché i giornali stanno perdendo copie, pubblicità e subiscono la concorrenza di internet in parte della televisione, in parte c'è proprio un calo delle loro attività principali. E quindi bisogna ragionare di costi, di ricavi, di prodotti in modo totalmente diverso. Saprà farlo lui. Quelli che c'erano prima sembra che non l'abbiano fatto, perché negli ultimi 2 o 3 anni hanno provato diverse volte a cambiare, ristrutturare, ma non si è spostato tanto l'equilibrio. Il Corriere è rimasto un po' isolato. Del resto anche l'operazione Stampa Repubblica, al di là del senso industriale che ha e delle valutazioni che si possono dare, lascia il Corriere, che è l'altro grande polo editoriale, in una specie di vuoto strategico. Deve un po' decidere cosa fare. Mm-hmm. E di questo vorrei parlare anche dopo il meteo e la pubblicità. Da questo punto di vista però, Antonella, su un fronte puramente finanziario, a questo punto, diciamo, visti il numero di gruppi complessivamente limitati, le varie operazioni si sono terminate, adesso partono le operazioni, diciamo, sul prodotto. Beh, dunque sì e no, nel senso che sicuramente ci sono operazioni sul prodotto, nel senso che da un lato i giornali hanno da difendere meglio il loro territorio pubblicitario, I giornali italiani l'hanno fatto troppo poco e non sufficientemente bene. In secondo luogo devono chiedersi se è possibile fare i giornali con uno schema e con una logica produttiva e con una macchina produttiva che era quella di 20-30 anni fa. E invece probabilmente bisogna cambiare, non esistono ricette internazionali. Ecco, io lo volevo sentire su questo. La domanda era, va bene anche la sua risposta, ci mancherebbe, era per Antonella Olivieri, però che volevo poi salutare. No, ci mancherebbe, comunque ladies first. Antonella, no niente, c'è ancora, diciamo, una parte finanziaria, però si vedrà nel giro di 1-2 anni, cioè la possibile fusione tra Cairo Communication e RCS. Questo avrebbe un effetto positivo per RCS dal punto di vista finanziario, perché la liquidità che adesso Cairo ha in pancia, che è una 90 di milioni, verrà assorbita per una 70 di milioni dal pagamento dei dividendi, ma c'è la possibilità che Cairo appunto faccia, guarda caso, proprio per 70 milioni un aumento di capitale e quindi tornerà ad avere soldi in cassa, mettendosi diciamo una fusione con RCS, che presumibilmente avrà ridotto i debiti e riequilibrerebbe anche la situazione finanziaria di tutto il gruppo. Allora, intanto ringrazio Antonio Olivieri, poi invece sulla parte più strategica, a cui già faceva un accenno il professor Gambaro, torniamo dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Roma-Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, volevo concludere l'approfondimento sul passaggio di mano, diciamo, del controllo del gruppo Rizzoli Corriere della Sera a Urbano Cairo con il professor Marco Gambaro. Al di là della vicenda in sé, i cui caratteri finanziari abbiamo raccontato, e anche del fronte finanziario a breve, brevissimo, aumento di capitale da 70 milioni. Le sfide per il futuro. Lei prima, Gambaro, ricordava come in tutto il mondo occidentale, insomma, dove il modello dei media è abbastanza simile, è in corso un processo di consolidamento, che vuol dire gruppi che si fondono. Fino a qualche anno fa si parlava molto di sinergie, diciamo prima con Antonello Olivieri, i gruppi che fanno la telefonia, per esempio, cioè i binari che si sarebbero dovuti fondere o integrare con chi produce contenuti, quindi diciamo i vagoni, per usare l'esempio prima di Antonello Olivieri. Mi sembra che questo sia stia un po' passando in secondo piano o no? Direi di sì, l'idea che appunto per trasportare si debbano possedere le autostrade piuttosto che le ferrovie, per fare le ferrovie i binari, è un po' nell'ambito dei contenuti, mi sembra abbastanza tramontata. In realtà le capacità, le competenze tipiche di un'azienda di telecomunicazioni rendono molto difficile il fatto che sappia fare, governare bene anche un sistema di selezione dei contenuti, e in gran parte degli esperimenti in questo senso non sono andati troppo bene. Qualcuno è andato meglio, qualcuno peggio, ma insomma. Quindi no, credo che questo non sia. Diciamo, il mondo dei media è più piccolo di questo grande mondo delle reti, naturalmente, ormai si sta rimpicciolendo sempre di più per alcuni versi. E sì, tra un giornale, tra un gruppo editoriale e una televisione come la Sette, e peraltro un editore di periodici come Cairo, per il resto a parte la Sette, sono possibili sinergie. Ci sono economie di scala nella vendita di pubblicità, nell'organizzazione generale, sicuramente sono possibili dei risparmi. Ma io credo che per il gruppo RCS la cosa più importante sia essere gestito da un'unica direzione. Purtroppo l'azionariato che nel corso degli anni si era accumulato nel gruppo RCS aveva fatto sì che ci fosse una situazione in cui molteplici azionisti dialogavano con pezzi dell'azienda e avevano spesso referenti nei singoli dirigenti, e questo dal punto di vista dell'azienda è più dannoso anche di prendere una strada sbagliata. C'è troppe voci e troppe teste, diciamo, che intervenivano. Senta, al di là della vicenda, per concludere, RCS, però ci sono poi casi singoli, perché anche nella vicenda RCS molti hanno evocato in questi giorni, nei giorni passati, il danno che è conseguito all'operazione Recoletos nel 2007, l'editore spagnolo Recoletos, pagato a prezzo d'oro 1 miliardo e 100 milioni, fattura circa 300 milioni, per cui quello ha creato un buco. Ma al di là dei casi, diciamo, singoli ed eccezionali, il problema più grosso qual è? È l'erosione di lettori, perché c'è il web e quindi uno si approvvigiona di fonti in altro modo, o l'erosione di pubblicità perché c'è il web e quindi la torta pubblicitaria si distribuisce anche altrove? E dunque è molteplice il problema, nel senso che c'è un'erosione dei lettori, in parte perché è facile trovare le notizie direttamente sul web, in parte perché c'è meno tempo da dedicare ai giornali, quindi è un'erosione complessa anche quella dei lettori, non è semplicemente una sostituzione. E c'è erosione della pubblicità perché c'è stata la recessione che ha ridotto gli investimenti pubblicitari, ha portato le aziende a misurarli con molta più attenzione, e perché i giornali, molti degli investitori pubblicitari tipici dei giornali, sono quelli che hanno investito abbastanza sul web. E quindi questo ha creato. Inoltre il web ha eroso una parte importante della pubblicità locale, in Italia non molto, in altri paesi tantissimo, la cosiddetta classified, cioè nella sostanza gli annunci di lavoro, di compravendita di case, di vendita di automobili, che sono le tre grandi famiglie, e che facevano però quasi il 50% di ricavo dei giornali in paesi come gli Stati Uniti. Ora i giornali sono un business con i costi fissi, cioè la gran parte dei costi è indipendente dal numero di copie vendute, cioè i costi per fare il giornale, la redazione, e se però io ho un calo di copie del 10, 20, 30%, un calo della pubblicità, o riesco a modulare i costi fissi rapidamente, cioè a rendere più piccole le redazioni secondo quello che succede, o se no salto in pochissimi anni, è devastante. Intanto posso anche cercare di sfruttare le mie competenze sul web, trovare strade, allargarmi, esplorare sinergie, tutto quello che si può fare. Sì, per quindi lei dice è stato quello che gli esperti chiamano il combinato disposto di vari fattori, non un unico, direi di sì, non un unico elemento che è intervenuto. Per concludere però, Gambara, non mi sembra che il mondo anglosassone, che noi guardiamo sempre con molta attenzione, parlo del mondo dei media, Sì. Però abbia trovato la soluzione su questo, anche gli esperimenti fatti negli Stati Uniti. Esatto, il problema è proprio questo. Mentre nel caso di altre innovazioni, a un certo punto si è consolidata una soluzione a livello internazionale, il problema era a replicarla. Questo non è vero adesso. La soluzione è quelle poche che ci sono, sono molto, dipendono molto dalle singole competenze, dal singolo mercato, dalle singole caratteristiche. Quindi ogni giornale deve trovare la sua strada, il che rende costosa la transizione, naturalmente, perché se ci fosse una soluzione da applicare sarebbe chiaro, più facile. E rende essenziale la sperimentazione e l'esplorazione, cosa che purtroppo i giornali italiani stanno facendo troppo poco e contribuendo a scavarsi la fossa da soli. Ma io non posso parlare per il gruppo a cui appartengo, certo, perché sarebbe inelegante. Sarebbe inelegante. Quindi quello che noi abbiamo percepito, lei ce lo conferma, cioè che nemmeno dal mondo anglosassone o soprattutto americano, dove in questi anni sono arrivate poi delle chiavi di lettura, e quindi la capacità anche di dire facciamo come loro, applichiamo modelli, riadattiamoli, non c'è una ricetta univica. Le soluzioni sono poi le solite: coinvolgere i più lettori, cambiare il modo di produzione delle notizie, selezionare in modo diverso le notizie, chi troverà la strada per mettere più commenti, chi dovrà focalizzarsi più sul locale. Quindi poi le strade sono delle cose. Sì, anche perché all'inizio sembrava che il tema fosse solo far pagare le notizie online, ma si è scoperto anche negli Stati Uniti che non è proprio così. Possono fare solo pochi grandi mezzi internazionali, almeno questo è quello che risulta finora all'esperienza, e anche quelli fanno molta fatica. Cioè occorre un brand fortissimo e un mercato globale per farlo. Per farsi pagare. Hanno poche speranze di farli pagare. E quindi bisogna trovare soluzioni alternative. Che non sono, lo dico a chi mi sta scrivendo, alla luce del sole. Cioè non c'è il modello spagnolo, francese, tedesco oppure statunitense. No, non c'è. La verità è che ognuno deve mixare queste strade, che poi sono quelle che appunto che sono le cose nuove emerse con la rete, cioè il coinvolgimento dei lettori, il cambiamento del ruolo dei consumatori in produttore, il cambiamento del ruolo dei giornalisti da produttori di notizie a gatekeeper, la capacità della rete di commentare, eccetera, vanno mescolate in una ricetta che non è, è spesso unica per ogni giornale. Per non ogni ho gruppo. Capito il ruolo, mi interessa direttamente, il ruolo di cambiamento dei giornalisti da produttori di notizie a? A gatekeeper, cioè in realtà i giornalisti sempre più, siccome ci sono notizie, apritori di cancelli letteralmente, gatekeeper, siccome ci sono notizie sempre più nella rete, la cosa essenziale non sarà andare a prendere la macchina, andare a fare l'intervista in un posto, ci sarà anche quello naturalmente, però sarà nel flusso di informazioni essere capaci rapidamente di selezionare quelle rilevanti, confezionarle, aggiungere qualche cosa, di qualche telefonata, talvolta delle interviste, talvolta mettersi in due a lavorare su un argomento, però tenendo conto che già ci sono tutte le altre, e quindi saper governare questi flussi, saper leggere le statistiche, sapere ricostruire le informazioni a partire dai dati, è un cambiamento di competenze. Il giornalismo è un mestiere molto artigianale che si è consolidato nel tempo con regole molto tradizionali. Ci sono strumenti a disposizione che sono totalmente diversi ormai, è un mondo tutto da inventare, onestamente. Esatto, una volta il problema nostro era l'accesso alle fonti, a trovare le notizie. Adesso le notizie sono la cosa più inflazionata che c'è sulla rete, il problema è capire quali sono notizie, quali no, e quali hanno, avere una capacità anche di analisi, non dico filtro perché sembra brutta come parola, ma lei dice gatekeeper, apertura dei cancelli, sì, far capire quando una cosa può e ha gli elementi per diventare notizia, o quando invece è solo flusso di informazioni nel mainstream della rete, ma diventa quasi quello che gli americani chiamano overloading informativo, cioè sei schiacciato da un eccesso di informazioni, per cui hai bisogno di qualcuno che te le selezioni. Grazie intanto anche al professor Gambaro, Marco Gambaro, andiamo sul traffico. E poi invece, a proposito di digitalizzazione digitale, continua il viaggio che stiamo facendo anche con il Sole 24 Ore nell'Italia digitale e nella necessità che hanno i distretti, i territori di digitalizzarsi. Focus Economia. Sì, perché mentre ci arrivano anche buone notizie, oggi per esempio ce n'è una che, visto che parlavamo prima con l'ex ministro Giovannini del mercato del lavoro, che riguarda un'offerta, una ricerca di persone, 370 persone che verranno selezionate entro fine anno da Dental Pro, la più importante rete di centri odontoiatrici in Italia, che aprirà 20 nuove sedi sul territorio nazionale. E ben venga qualunque tipo di offerta di lavoro, però di come deve cambiare la piccola e media impresa e deve digitalizzarsi, innovare. Dette così sembrano parole molto, molto generiche. In realtà il Sole 24 Ore, assieme a Confindustria, la piccola industria di Confindustria, e Ernest Young, sta compiendo un viaggio nell'Italia che è iniziato in Campania, poi è andato a Bari e venerdì, quindi nel fine settimana, si è concretizzato a Oderzo, in provincia di Treviso, nel nord-est italiano. Sono intervenuti il presidente del ragionamento Zaia, il presidente Confindustria Boccia e il direttore della banca del territorio di Intesa San Paolo, Stefano Barrese, in collegamento anche il ministro dello sviluppo economico Calenda e Alberto Baban, presidente della piccola industria di Confindustria, la cui importanza è fuori discussione. Però, così come è in fuori discussione per le piccole imprese di Confindustria, anche la necessità di non restare solo piccole, di continuare a innovare e aggregarsi. Piccola è una fase della vita, non può essere un obiettivo. Sentiamo comunque il presidente della piccola industria di Confindustria, Alberto Baban, al microfono del nostro Adriano Palazzolo. Statisticamente l'importanza nei numeri è nota, siamo oltre il 98% delle aziende, ma l'importanza è focalizzarsi sulla idea ossessiva della crescita di queste aziende, riuscire a catturarne il potenziale, capire se queste imprese possono essere accompagnate nella propria crescita e raccontare qual è il percorso che può creare questa nuova attitudine. L'innovazione è uno di questi fattori abilitanti. Si parla tanto di infrastrutture tecnologiche da migliorare, ma c'è anche qualche altro tipo di infrastruttura che potrebbe aiutare le imprese? Forse l'azienda che ha innovato meno e che ha investito meno sull'evoluzione propria si chiama Stato. Ed effettivamente questo problema di non aver costruito una situazione di contesto a favore delle imprese che invece avrebbero potuto fare di più è il significato del gap di tempo che si sta negli ultimi periodi sempre più facendo emergente come fattore. Quindi il sistema infrastrutturale è una parola che sta diventando non solo di moda per stendere qualche chilometro di fibra e portare la banda larga, ma sta diventando anche lo stimolo giusto per riuscire a far capire che l'evoluzione del nostro paese non è solo economica, ma è sociale soprattutto. Sono passati già 6 mesi per questo 2016, è tempo di fare un po' di bilanci. Come stanno le PMI? Stanno come sta l'Italia, un paese che cresce ancora per fattori esogeni e che ha ancora un mercato interno troppo stanco o che forse non crede in se stesso. Abbiamo bisogno non più di un'evoluzione graduale, ma una rivoluzione shock. Bisogna credere di più nelle nostre possibilità, capacità e soprattutto pensare che non funziona solo la grande capacità che hanno gli imprenditori, ma deve funzionare il sistema di accompagnamento governativo. Allora, vorrei continuare a parlarne e a parlare di che cosa significhi poi innovare, perché la parola, ripeto, è può essere molto retorica, con l'amministratore delegato di Ernst & Young, Donato Iacovone. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dove in questo viaggio che state, che stiamo, perché l'iniziativa appunto è organizzata con il Sole 24 Ore e con Confindustria, con la piccola industria di Confindustria, oltre che con Ernst & Young, in questa tappa del viaggio restano uguali i temi o si modellano a seconda del territorio? In realtà ascoltiamo le storie delle imprese, alcune sono uguali in tutta Italia, qui c'è molta più industria ovviamente rispetto all'ultimo appuntamento e c'è anche molta diversità, c'è anche declinazioni diverse dell'innovazione, di come intercettarla e di come metterla poi in pratica. Qui si è parlato un po' di più di industry 4.0, cioè di come innovare la linea di produzione delle imprese cercando maggiore efficienza, quindi abbassando i costi di produzione, inserendo quindi più software, più tecnologia nelle linee di produzione, più automazione anche da un punto di vista proprio del software e del processo, allargando il processo della produzione anche ai fornitori, ai distributori e quindi aprendo le imprese a tutti i suoi stakeholders, a tutti quelli che sono i soggetti che collaborano, diciamo, alla realizzazione di un prodotto o un servizio di quell'impresa. Da questo punto di vista è chiaro che insomma sono tantissimi gli aspetti da affrontare. Nel Veneto comunque state lavorando con una terra in grossa difficoltà, tutto quello che vogliamo, ma una terra che ha un punteggio molto alto se guardiamo l'osservatorio innovazione di Ernst & Young Confindustria, 83 punti su 100 nell'attrattività, grazie anche alla qualità del capitale umano, alle istituzioni, al mercato potenziale, a quello del lavoro. E anche sul digitale c'è un buon avanzamento della regione Veneto, per cui dove l'utilizzo delle tecnologie avanzate nel business e la spinta che danno alla crescita competitiva è alto. Si può migliorare dove allora? Perché detta così sembrerebbe una regione che dico ha poco da imparare. Si può migliorare nell'accelerare l'implementazione di queste tecnologie che hanno un costo sempre più basso di implementazione, parliamo di sensori, parliamo di tutte quelle tecnologie che possono essere implementate, parliamo anche delle tecnologie che consentono di avere, che vanno sotto i nomi di analytics e big data, più informazioni sui propri clienti e quindi migliorare con maggiori informazioni, dati, l'esperienza del cliente che diventa sempre più importante. Queste sono le cose importanti che sono emerse. È emerso anche un altro aspetto che mi piace sottolineare, perché non me lo aspettavo, e cioè che piccolo non è bello sta passando un po' dappertutto. Anche nella patria del piccolo, diciamo. Esatto, e quando lo dicono gli imprenditori che una dimensione troppo piccola non consente più di competere in mercati sempre più globali, sempre più innovativi e sempre più con richiesta di innovazione, di investimenti in innovazione, soprattutto in aziende che si devono aprire a centri di ricerca, a labs, a università e quindi ad aprirsi a questo tipo di collaborazione, oggi è emerso da più di un imprenditore e vedevo che era condiviso da tutti i 500 persone che vi partecipano a questo evento, che piccolo non consente più di competere nel mondo. Allora questo è un fatto nuovo, cioè è una cultura, come dire, che sta crescendo in tutto il paese, soprattutto in quest'area. Ultimo aspetto che però si collega molto a questo: noi sappiamo che nel nord-est c'era un problema di piccolo e troppo piccolo, non più bello, ma c'era anche un problema di distinzione tra patrimonio e manager, nel senso che da questo punto di vista spesso si confondeva l'assetto patrimoniale con la managerialità. Per dirla tutta, i figli obbligati anche delle volte controvoglia a stare in azienda, la difficoltà nel capire quanta parte del capitale è dell'azienda, quanto è della famiglia, cioè dell'azionista. Ecco, su questo notate qualche segnale di maggiore ragionamento? Allora, questo sono stati un paio di esperienze in cui si cercava di ragionare sul lievito che fa crescere la dimensione dell'impresa, è stata proprio portata questa metafora del lievito di birra ed è stato interessante ascoltare il caso di Irinox, che è un'azienda del luogo, e del vicepresidente Katia De Ross, la quale ha portato insomma, come un elemento che può far crescere le imprese è quello proprio di dividere il ruolo degli azionisti da quello del management, e loro ritengono che Irinox stia crescendo e abbia investito e continui a espandersi, a crescere double digit di anno in anno, proprio perché si sono divisi i ruoli e quindi gli imprenditori fanno gli imprenditori o fanno gli azionisti o cercano nuove sfide nel mercato e i manager gestiscono l'impresa. Questo di nuovo l'abbiamo ascoltato dagli imprenditori, io lo trovo rivoluzionario, insomma, che gli imprenditori parlino di elemento di successo separare i ruoli e che la dimensione di impresa è un fattore di competizione importante. Mi dica, nel salutarci, Iacovone, insomma, quello che voi chiamate, che adorate questi inglesismi che invece noi odiamo, il take away, cioè quello che uno si deve portare a casa, non è la schiscetta o il doggy bag, è un'altra cosa, ma quello che uno dovrebbe portare a casa da questo incontro, cioè possiamo chiamarlo titolo o insomma messaggio principale. Messaggio principale è che questa rivoluzione, che viene chiamata quarta rivoluzione, diversamente dalle altre, ha una complessità enorme, perché sono molte variabili che si stanno muovendo contemporaneamente, dovuto alle tecnologie, dovuto anche al cambio del consumatore culturale, delle nuove generazioni che si affacciano, e quindi le aziende devono stabilire delle priorità, perché tutte insieme, soprattutto le piccole e medie imprese, non le possono affrontare. Questo è il takeaway, è prepararsi e definire le priorità che ogni azienda, e poi una dopo una affrontarla, perché questo è l'unico modo per sopravvivere e per continuare a competere e crescere in giro per il mondo. Sì, vedo che ci chiedono perché quarta rivoluzione, adesso qua non vorremmo fare un trattato di storia economica. Se ben ricordo, uso la classificazione di Cipolla, di Carlo Maria Cipolla, la prima rivoluzione, insomma, storica fu quella agricola, quella che permise lo sviluppo, diciamo, tra i fiumi Tigre e Eufrate, se ben ricordo. Poi la rivoluzione industriale di fine Settecento, cioè l'utilizzo della macchina a vapore, l'utilizzo delle materie prime per produrre di più telai. Poi il fordismo, quindi l'inizio secolo, fine 800, inizio secolo, la produzione di massa, e adesso la digitalizzazione dell'economia. Quindi siamo di fronte a una rivoluzione, così rispondo anche a chi mi prende sempre in giro quando dico che non è una crisi, la crisi è durata molto poco, questo è un cambio di paradigma, una rivoluzione vera e propria, come studieranno sui libri i nostri figli. Grazie intanto all'amministratore delegato di NS Young, Donato Iacovone. Grazie a voi, buona serata. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.